praticamente sulla D del DB che non arriva nessuno. Poi c'è, vabbè, a seguire Tore, poi Gio Maria, insomma, e gli altri, ecco. Però Vacchisio è l'unico più forte che, vabbè, vicino a me, sulla D del DB. E ti fa abbattimento, giusto? Siete troppo vicini. Abbattimento sono i miei pazzi. Vabbè, lui sente a me e io sento a lui. C'è un attacco amplificatore di basso anche a Battigio. Cosa, Cla? C'è un attacco amplificatore grande, anche a Battigio ci passa. Non lo so, potete provare. Comunque l'unico adesso per il momento non è vicino a me, Cla, dai. Cioè praticamente rimane dietro la locomotiva, dai, quella zona lì, più o meno. Siamo molto vicini. Vabbè, riprendete, riprendo subito. Cosa c'è dentro il Balsana, non è Battigio? Anche io riprendo subito mentre faccio la roba. Ma guarda a vedere lui, com'è lì adesso? Sulla A, sì, va, sono Boboli, sulla A, sulla A, c'è in alto, Cal, sì, sulla A. Ecco un attimo che arrivo subito, Cla. Ci trovi, stanno chiamando. Antonio Bombo, lo riprendi, facciamo la prova assieme, io ho attaccato io. Passa lo basso a pompa. Allora lo passi, ma si sente, si è fischiato, si è frusciato sotto, Marco. Sei quasi sulla A. Anto, siamo pari, dai, sia lì sia attaccati, siamo pari. Cappa, dai, ho voluto fare una prova a vedere, perché lui è il più, diciamo, da noi un po' più lontano, vabbè, già va bene. E con un'antenna un po' più piccola. Ok, dai, ritorno normale che è meglio, dai. Ma comunque già l'antenna tua funziona alla grande, di lusso. Funziona alla grande, Cassini ha fatto un vento, questa antenna se non li farà mai non li farà più, perché praticamente è attaccata con un palo da un metro, di quei pali pesantucci, secondo te saranno pali tipo, non so, quelli dell'antenna che si usano, quelli leggeri, ma è più pesante come palo, più grosso, ed è attaccato a questo pezzo di lamierino che balla, che è attaccato al braccio dove stendi, eccoli, e balla, ce l'hai preso adesso, perché c'è l'antenna, il palo, questo palo da un metro, e giù, mamma mia, ma mai io l'ho legata con un cavo, perché se ci scende giù cazzo fa danno. Ma che no, non si spezza, già va bene, non li va di nulla, non li va di. Quella mirina del capo, ma già si può attaccare anche diversamente volendo. Ah, va bene. Ma non c'è modo di mettere una staffa, Ru. Bisogna studiare. Quelle staffe tipo braga, no? Che aggancia tutto la. Come si chiama? Il corrimano del terrazzo, come vuoi chiamare, vabbè, lì la ringhiera, dai, perché è grosso, capito, è grande, già sarà largo 5, forse anche 10, è alto quindi una quindicina, cioè una punta lunga di trapano, grosso, bisogna costruirla e mettere un palo magari invece da un metro, due metri, tre metri, Ma va bene anche così, non ti credere che non vada bene, così va bene, per come l'hai messa, non è manco in zona mia, non è puntata da me, quindi l'ho messa abbastanza, va abbastanza bene, dai. E abbiamo arrivato con Claudio, dai, abbiamo arrivato con Claudio, vabbè, dai, riprendete voi, Marco, riprendi. Io faccio una pausa. Forse mi faccio un caffè, tipico. Ok, Claudio, vuoi riprendere? Ah no, sto facendo la barbaretta. Facendo la barba, Claudio. Ah, dai, cazzo, qua, per il tipo di antenna, secondo me è una tra le migliori antenne piccole che ci siano in circolazione. Perché io ne ho provato altre, la KBG, la Boomera, è valida, è un'antenna buona e valida. Sì, valida, e come? Chi era che te ne parla? No, non passa nessuno qua. Ma Bombolo attaccato è come Claudio, 9P30. Se non di più di certe antenne di quelle 5 ottavi leggere che si mettono sul tetto. Ma va molto bene, se poi la metti sul tetto quella lì va ancora meglio. È buona, io qua ce l'avevo e era una bomba, era. Cioè, veramente, veramente buona. È 40 anni che la vado di minimo. Cioè, ero piccolo io quando la conosco, che mio padre ce l'ha avuta una. Proprio ce l'ha avuta una lunga così. Ah, si c'è una bomba. Ed ero piccolo io, quanti anni c'è questa antenna? È la più valida che ci sia nel commercio, eh. Non abbiamo noi di Brumaghito che d'altro. Io l'ho provato tanto e quella lì è la migliore. La mini non serve a niente perché ce l'abbiamo avuta a Baccaridai. Ma poi stasera a regolare un casino anche quella lì. Marco, cosa ti stavo dicendo, sei poi andato su internet per caso, se la trovi con l'antenna lì, se no mi compro lunedì, mi compro con la mini turbo, perché ho intenzione di farmi l'impianto in macchina, mi sta prendendo l'Alzheimer. Telefono. Appa. Noia. Non riesco a trovarla, ragazzi. C'era la Minox della Sigma, non esiste più, non c'è più in commercio. E me la ricordo. Quella era buona, quella lì era una bella antenna, pompava forte ed era piccola. Bisognerebbe vedere un po' se ce ne trova qualcun'altra, non lo so. E se no mi compro la mini turbo, così posso mettere quella lunga o quella corta, nello stesso attacco. Buona è questa mini turbo. Sì, è della turbo 2001, ce l'ho presente, è però più piccola. Provala, tanto qua non ci sono problemi ad ascoltarti. Capo, l'altro giorno a Platamona ti sentivo bene io, non avevo problemi. Ma ero con l'antenna grande, tanto e poi ero con portatile, non mi piace, non mi piace avere l'apparecchio fisso. Quanti break? E ciao, che da Ruggerito, ben sentito, dai, buonasera. In compagnia di Marco Codola, Antonio Bombolo, Alessio, me medesimo, che ti super cordializzo, e via dicendo. Ma per chi vuoi, Claudio sta facendo la barba, non lo chiamare perché se no si taglia. Capa, buonasera anche a te. Capa, come senti lì a Muros? Cavolo, Santiago 4 solo. Sì, cavolo, Antu. Ciao, Chiodo, Marco da questa parte, io sono attaccato. Per la cronaca, com'è? Dare sempre due segnali in meno di quello che ti dà l'apparecchio, così non sbagli. Cambio il baracchino perché con questo mi stanno splatterando, dai, cambio, se no non capisco nulla. Oh, Ruggerito. Vabbè, Chiodo. Sempre Ruggerito, guarda che c'hai un rumore di sottofondo qui, è tipo un tipo scarico, una cosa, manco scarica, un rumorino c'è che non so come sia, stai attento, non c'è che ti prego che proprio un apparecchio, controlla, perché c'è un rumorino sotto, comunque buonasera a tutti, qua la stagione orario, ok, a te di nuovo Chiodo e ripeti. No. E capa, salutoni Uranio, salutoni, mi senti? Buonasera. Qualche contatto che sta facendo, falso contatto e ti crea questo tipo quando tu appoggi qualcosa, diciamo un filo malsaldato che sta facendo un falso contatto, capito? Una cosa del genere, capito? E capo, traduttore Uranio, mi senti? Ti sento, Santiago 8, qua è Radio 4, vai. E capa dai, qua ti sento abbastanza bene, ti sento abbastanza bene qua. Anche tu sì, 8, 9, che c'è un segnale del genere, sì. E Roger, io sto anche qua scaldagliando, ho caldaia accesa, quindi è ovvio che stia arrivando con un segnale, diciamo, notevole. Perfetto, controlla chiodo sia che faccia che fai danno, controlla bene perché lì non è un rumore, diciamo, normale, un qualcosa che, diciamo, di rosso, capito, controlla bene. Diciamoci. Non si sa mai, perfetto, vai, ok, io ci sono già un bel pezzo qua, ti stavo sempre ascoltando, ok. Sono andato così per dire a chiodo che sta facendo un torrino lì, bisogna controllare, non sa mai. Perfetto, dopo ognuno fa quello che vuole. Ok, va bene, non so chi, non mi ricordo chi sia adesso. Va bene, riprendi tu, chi sei tu? Antonio mi pare. Antonio Bombolo mi pare, riprendi, avanti. E KK, sì, sono io, Antonio Bombolo sono. C'è anche Gianni Doppio Ruce, avanti già. Sì, ciao Francesco, mi sentite anche a te. Avanti di nuovo. C'è un'inaugurazione spettacolare. A static. Molto fine la comunicazione, molto chiara, con un sottofondo di amplificazione. Ok, bella modulazione, ok, complimenti. Adesso la modulazione dovrebbe essere più alta, ce l'avevo basso il volume, guarda adesso. Infatti, te lo volevo dire anch'io, cioè, così va meglio, lascia, va meglio. Me l'hanno fatta abbassare, dice che era troppo alta. Bene, va Marco così. Marco Conno. C'è una bomba è qua. Qua una bomboletta. Capo, l'uranio mi arriva veramente bene, ma anche il chiodo arrugginito non è male qua, come segnale, no, non è male. Non capisco perché lì mi sento un po' più basso, ma quello non lo so perché. Comunque già va abbastanza bene, dai. Adesso sei anche più forte in radio. Scappa, adesso sei una bomba, sì. Come ti arrivo lì nel QTH di Muros? In 7 state parlando, buonasera a tutti. E tu sei l'ottavo, la barba fatta te l'hai. Sì, mi sono tagliato anche il naso. Quando ti ho detto anche da Ruggito, te l'ho chiamato che ti tagliavi. Ciao, buonasera a tutti. Sì, chiaro, ti andando benissimo, dai, sono entrato, mi stavo sbarbando. Voglio con voi oggi, e quindi l'ho fatto adesso. Sì, sta andando benissimo, vai, 5-9 più 20 radio 5. No, mi sono fatto un tatuaggio nel naso. Stroppa. Non lo sento chiaro io. Che da Luigi, perdonami, ma non ti sento chiaro di radio, ti sento strano, non so se dipenda da me o sei tu che stai uscendo, non sei chiaro, all'inizio eri chiaro, adesso ti sei un po' impastato come modulazione, non lo so se gli altri ti ascoltano così o se dipende da me. Allora, salgo. Ma Antonio deve essere colto alle schiave. No, adesso sta andando bene, poco fa la ragione Gianni di strappato. È troppo vicino al microfono. Chi c'è qua già? Illuminami che io mi sono allontanato. Sì, ci siamo io, Antonio. C'è Gianfranco, non so se stia facendo ancora cosa, era impegnato. Poi chiodo arrugginito, Antonio, io e Marco Condo. Vabbè, quindi ce l'avete che vi ho sentito, dunque buonasera a tutti, io qua mi sono allontanato. Vabbè, mi pare aver sentito anche a Francesco da lui. correggio, così è. Sì, Francesco ha detto che è entrato per correggere, non so se si vuole trattenere, che è entrato per correggere la modulazione, che c'era un rumore, come si chiama, che era arrugginito e per bivio è entrato, non so se vuole rimanere, Francesco, va. Ok, yeah. No, a me piace la correttezza, capito, perché io ho la passione, quindi mi piace anche avvertire anche agli altri se c'è qualche problema che non va nella stazione. Buonasera Claudio, ti ho sentito il salutone cordiale qua dalla tua, eh? Ok. Capito Claudio Chiodo, adesso sta andando bene, comunque non ti avvicinare il microfono, ma stavo anche per dire che salvi eri troppo amplificato, così va meglio adesso, va bene, se non ti avvicinare, magari abbassa un po' il microfono, se ti avvicini così va ancora meglio, dai. Comunque adesso che ti siamo parlato va bene, rimane così che va benissimo, ok, perfetto. Va bene, ok, riprendi Claudio. Claudio che io? Sì, va. Ok, capo, va bene, sì, infatti mi sono accorto dopo che stavo attrappando. No, il primo impatto andava bene, poi si è avvicinato troppo. Ok, no, già va benino con la radio, Claudio, va benino, no, non c'è male. Questo vorrei ancora dato uno sguardo generale, perché c'era ancora qualcosa da vedere con la radio, e comunque in compenso sta andando, vai, per come era sta andando. Avanti, ma che c'è anche Marco, non lo so, se non riprende tu Chiodo. Kappa, io sono bello la radio. Quando funzionano sono belle tutte, poi è un casino. Avanti, doppio numero, riprendi. Bombolo, riprendi. Ti ascolto bene comunque qua a Sassari, sei abbastanza forte. Qua dove sono io, nella postazione mia. Forse anche meglio delle altre volte, Claudio, Chiodo Arrugginito. K, non so chi sarà il più avaro, ma comunque guarda, no, non c'è problema, qua io ti sento benissimo, non ho problemi, ma sento anche bene Uranio, no, non ho nessun tipo di problema, no, no. Perché io sono molto più lontano di Claudio, cioè la Blu c'ha anche la posizione più alta, cioè, va bene comunque, va, posso anche comunicare. Luca stava pure utilizzando una boomerang, non è a casa sua, no, se va a casa sua lo senti ancora più forte, lo senti. Sì, kappa, e di tanto arrivi anche a Muros, quindi già va bene, vai. No, io non ci arrivo, sì, io arrivo sino alla griglia. Ma tra che te ne guardi, tu già sei bello forte, già. No, vai, sono contento e soddisfatto. Io mi sto accorgendo che questa rende, insomma, mi sto accorgendo. Io che vuoi, però, cioè, anche in certe prestazioni, vabbè che quella là c'era quel problema, però, mettendola a posto non lo so poi. Però, questa mi piace di più, la verità. Ma vabbè, a te già va bene, l'importante è che ti sentano, da come di prima, come sia adesso, già va bene, non c'è problema. Ok, vediamo doppio rumo se c'è ancora. Doppio, ma sono un telefono, riprendi Francesco. Sarà in due. Parlate una volta, cosa hai detto Marco? Parlate in due, Gianni ha ripreso, Gianni. Sì, ho detto un attimino solo che sono impegnato, riprendo dopo, già chiamo lì. Io mi sto rilassando un pochino dopo tanto delirio qui. Alla fine Claudio, a parte le pause, da quando è? Dalle due che siamo in radio. C'è un delirio oggi veramente, probabilmente sai cos'è? Non sapevamo dove sbattere la testa a tutti, allora siamo entrati al baracchino, anche se sta a parlare di nulla, così un po' a sventiare, dai. Riprendi Chiodo. Sì, cominciato a Francesco Uranio, avanti Francesco. Una parente per quella, no? Non fa niente. Tanto io mi dedico anche alla Corritz, quindi non c'è problema. Allora, Chiodo, cos'era quel difetto che sentivo io? Cos'era nel microfono o dov'era? Perché sicuramente era qualche contatto che sta facendo, non stavo facendo bene la massa. Sicuramente, è come avevo pensato io. O a te, Chiodo, che stai attento con quelle cose lì. Dove saremo attenti, qualche volta succede anche qualche casino, eh? Quindi bisogna stare molto molto attenti, ok. Va bene, io detto questo chiudo e vi saluto tutti in generale e correti per me, ok. Va bene, riprendi Marco Condore per me e correti, salutami a tutti, ok. Ciao, a te Marco. Scappa, ciao Francesco, ci sentiamo, sentiamo le prossime, anche oggi andavi bene, modulazione ottima, segnale 8,5 circa, quindi di lusso, dai, con l'aiutino naturalmente, anche io sto usando l'aiutino, ma giusto perché era fermo da parecchio, meglio sempre farla girare la roba perché sennò poi si inchioda. Lasciarlo ferma troppo, se no non è mia abitudine stare con lineare e linearizzi, tanto siamo sempre in città qua. Vediamo chi ci è rimasto, chi rilancio, Bombolo, Antonio, Bombolo, sei rintratto? Io già sono sempre qua, già. Riprendi, no? Va la grande, va. Ma cosa c'hai, quello tipo il mio, no? RMKL203. Sì, guarda che dentro è uguale al tuo, è identico, è la stessa cosa. Allego foto più tardi, adesso smonto tutto qua. Ok? Rilancio per Claudio Sparviero. Io intanto saluto Francesco, ciao Francesco, buonasera, ben ascoltato, con verità. Alle prossime, grazie per essere intervenuto nel corso. Il cambio per Claudio D'Amuroso, vai Claudio. Capa, saluto anche io a Francesco che capo, me stavo dimenticando. Capa, no, va benissimo, io ti sento che è una meraviglia qua, Ti sento proprio che è una meraviglia qua, Sassari. Non ho nessun tipo di problema, però tu sei Santiago 8, sei quasi. Sì, Santiago 8 sei. Va bene. Già l'importante è che ci sentiamo, dai, non è un problema, basta che ci sentiamo, poi tutto il resto è noi. E cappa. Come vento ce n'è lì a Muros? Scappa, io sono uscito proprio da vera, qua in casa si sta da Dio, si fa, c'è anche la cucina accesa, quindi c'è caldo e si sta benissimo, ma fuori, cavolo, mamma mia, ora è freddo davvero per me, c'è veramente freddo. Ma lo posso immaginare il freddo che c'è lì, mamma mia. Sicuramente, c'è un po' di freddo. Vabbè. C'è freddo anche qua, C'è freddo anche qua, io sono molto in alto. E c'è un bel freschetto, però la cosa è che anche se qua io sto bene, devo uscire per portare il cane ed è sempre una rottura di palle. Vabbè, pazienza. Scaldamento acceso te l'hanno qua. Sì, acceso. È acceso dal 15. Non ci sono problemi, ho 24 gradi dentro casa, detto ma fuori un freddo allucinante, non so, adesso mi devo preparare, portare il cane, quindi cosa volete vi dire? Devo uscire per forza, ma abbiamo un po' di freddo. Papa, va appena un cernaglio, no, che è qui. Cuzinendi, va appena di viaggio, un pochettino di odore qua. Quindi a bombe di caldo c'è. Qua basta che c'è mia cucina in questa casa e si sta da Dio città. Certo che sì. Va bene ragazzi, dai, intanto sono le 7:20, non dovete trovare a cincischiare. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguo di questione. Rimando un ascolto comunque, se ci siete dopo che rientro, magari facciamo altre due chiacchiere, ok? Per il momento vi saluto a tutti. Avanti, chiaro. Ciao Claudio, ben sentito, buona serata, vai. Avanti Claudio. Ciao Claudio, saluta a mamma, bravo, già ci sentiamo, vai. Ciao Claudio, che va ruggito, vai. Ce la risentiamo. Saluta a tuo padre a Capri 2, che è un po' che non lo sento. Ciao Claudio, un'altra cosa, ma sempre lavorando sta? Vai, ce la risentiamo. Avanti Gianni, ci sei? Ehi, anche ci sono, già sono qua. Stavo rispondendo a mia figlia. La bambina che tiene, il padre si è pigliato il Covid e quindi lei è in quarantena. È in quarantena? È in quarantena perché lei sai che cosa fanno questi bambini che hanno l'autismo eccetera, lì deve fare l'educazione per parlare, per fare queste cose qua, no? E il padre di questa bambina c'aveva il Covid e quindi anche lì in quarantena. Ma che siamo raggiunti, non ci capisco più niente. Ti dico la verità, ti dico. Cazzo freddo, bella mossa. Cazzo mi meccagia, che tu baria una padella bollente, baria. Non ci capisco più niente io la verità. Ti dico la verità. Un casino, Lei non lo sa se è positivo o no, però sta facendo la quarantena lì direttamente perché non si sa mai, capito? Non ci siamo io, perché marazzucci, io non so se crederci o non crederci, molti dicono che se tamponi non vale una cica, molti dicono che è grigio, molti dicono che è l'altro. Io non so più a chi credere, non so. Ma tu, il virus c'è poco da fare, cazzo, ho intervistato gente che è stata malissimo alle Iene, bastava guardare le Iene e ti accorgevi se esisteva o no. C'è gente che è stata malissimo, ha detto credeteci perché esiste, come se esiste, caspita, esiste come, siamo stati malissimo senza respirare, con l'ossigeno attaccato 30 giorni, cazzo. La bucaria prima o poi finirà, Dipende sempre dalle persone, se usano i criteri giusti penso che lo sconfiggeremo, ma siccome c'è gente che se ne frega, io scendo col cane e vedo gente senza mascherina passeggiando tranquillo. Sì, va. Sì, sono indiani, sono ignorante. Mi viene voglia di dire, non puoi parlare, se attaccarmi la subisì. Ma appunto, cosa vai? Da che conete? Davvero vai? Chi giovani mi tu, gente giovane. Lo so. Se ne affutti, hai capito? È come se non ci fosse nulla. Però quelle persone dovrebbero essere intaccate loro, capito? Per capirlo, solo che il fatto che lo contagiano anche agli altri poi, capito? Ma se ci ha attaccati, cazzo, si sempre abbriato, e cosa vuoi va? Non lo so. L'altro giorno c'erano due pattuglie fermando gente senza mascherina vicino a casa. Se poi li singheggiano, li muovono la multa e si lamentano. Vabbè, ma le macchine è buono, una rottura di balle, c'è da solo. Cosa ti muovono la mascherina, fugazzi. Già con chi si piccinti non si vede nulla, gatto, ti cuda rubato. Quello già è vero. Ma le macchine se si sotto la pittugine, dai. Non esageriamo, il problema è se devi portare qualcuno in macchina, te lo devi bussare da rete dalla sabba, se no dalla parte dell'autista dall'altra, dietro, come il tassista. Io devo fare da San Teodoro, devo andare a prendere una persona a Sant'Eodoro, cazzo, devo portarmela da Sant'Eodoro sino a arrivare a Sassari, sempre da Rido. Sì, vabbè, non è che, cioè, debba, così dite, ma bisogna vedere da voi. Ma mi pare che quella legge non c'era più, Sì, se non sei o convivente o parente che convive in casa tua, devi scendere dietro con la mascherina pure. Nel cofano fai sedere. Chiuso nel cofano. E so convince di pulire la tua portabagagli. Ehi, quello volevo dire, dai, cofano portabagagli. Io intendo quello di dietro, non sempre. No, sopra, a prendere aria. Ah, nel coso, come si chiama? Il siluro, quello che si mette sul tettuccio. Ehi, portabagagli, dai. Ehi, portabagagli si è sempre chiamato quello. No, l'altro è bagagliaio. Questo che è portabagagli. Io quando dico cofano intendo sempre quello indietro, già capito, vabbè, abitudini. Tanto ho visto là, è nuovo, poi dentro non ne parliamo, è nuovissimo. La ventolina è poggiata, è solo poggiata, al limite ci metto un elastichino, tanto perché, e rimane freddo. Questi cosi non so quando scaldano, quando vuoi stazionare, se non hai stazionare non scalda. No, ti garantisco che scalda, se non metti ventola e lo usi molto, diventa bollente perché comunque c'è i quattro finali che devono dissipare in quelle alette misere. Scusa già che gli ho mandato una foto a bombolo e stavamo commentando, riprendi Gianni. Se ti capita Marco, ti stavo dicendo poco fa, guardamela se la trovi con l'antenna, che la ordiniamo, perché devo fare il pianto fisso in macchina, adesso non so se mettermi la mini turbo o mettermi quella lì andava di più della mini turbo, mi sa a me, però non la trovo più, il fatto è quello, la Minox. Gianni, ma tu non avevi la 2001 grande, scusa? Non la metto, quella ti faccia la gappotta. La lascio con la... La metto solo quando sono fermo, tanto l'attacco è uguale a quello della Minox, capito? Devo cercare Sigma PLC Minox, così è. Io non l'ho trovato, provate, non sono riuscito a trovare. Ho avuto culo. Claudio, la cavella. Mirivella, ho avuto culo. Sì, già, è venuto. Non c'è una ce l'ha portata in giro. Vai, via, vai. Vai, che non sta bene al calduccio. Ah, te la sceso lui, cannoso. No, ce l'ha pigliato, se ne è uscita che mia figlia ce l'ha portata in giro. Vai. Tanto che non è bello, se non vuoi, vai, chiamo il calduccio. Perivella. Ah, mi sei morto. Come hai fatto quel video a Roberto nei capelli? Sì, in piazza Corona Mariana. E lì, sotto il vortice. E se la vende, Travagliente, stava lavorando lì, stava sgomberando una casa. Non ero già a Maniranda, E lui non tutto fa cazzo, l'ho chiamato anch'io in campagna. Ho chiamato anch'io in campagna a pulire tutto quello quando ho portato le riso. No, adesso c'è da fare già. Freddo e freddo, Quando non venne stazionario è freddo, prima abbiamo una badetta a Baria. Allora, è venuto alle 9:30, ha lasciato la moto via a Colombo, non ce l'ho preso io. E volevo che rimanesse, poi non c'era, no, invece non c'è rimasto. Intanto si beveva una lattina di birra. È arrivato per le 9:30, ci ha fatto 1:30, alle 2, guarda 50 euro. No, ma lo sai i salti che ha fatto? Vai, Robert, fini in lira, vai. Non ti ripeti tutti, mi. Poi ci mette a gheggio. Poverino, che. Orando, davaglia. Quello che fa su, ripeto, quindi va a bruciare. Fisciughe. Tutti ammucchiati. computer Rosetti qua ha fatto un lavoro allucinante, cioè a lui è una panica sciura, perché l'avevo visto dal fratello di Giuseppe, gliel'avevo detto, ma tu chiamami che vengo, e io l'ho chiamato, vai già. E poverino, almeno dai, si fa qualche lavoretto. Che si dà da fare per il fatto che è al viso del bere sempre, è ciuccia. Cassettine di lattine di birra, ne lavo una, c'è la birra, tranquillo, poi... ma no, cazzo, vai Giovanni, vai, travaglia, lo cambiate, vai, vai. Allora, che bello, allora, ogni tanto una, ma ce l'aveva avuto 3 o 4 lattine tutta la mattinata. Poco, vabbè, io quando mangio una pizza, una bottiglia di birra me la bevo da solo, ma faccio fatica alla fine. Già, quelle piccole sto parlando, non quelle grandi grandi, quelle piccole, le piccole, capito? Cosa sono? Sono 2 bottiglie di birra, non me ne intendo io. Bisogna dire al maestro Antonello Compugno, lui è maestro di queste cose, capito? E 3 o 4 poi avrò dato, e 2 un paio ce l'ha bevuto l'amico suo. Sono propenso perché c'è il vicino, quello che abita sotto, che ha bisogno appunto di fare un po' di pulizia lo stesso, svuotare un... c'è una di quelle casette in lamiera dove si fa svuotare, e forse l'avrei anche smontato. Aiuto, dimmelo, ti mando una mazinga, tanto non ha forza. Che cosa è come prendere il fascione della legna? Che mazinga? Roberto, e tu, fattore della sedicina. Oh, bei capelli! Se non macista non c'era forza, si beveva perché l'aveva mollato la moglie, se n'è andata con un altro e dal giorno non poteva vedere le bionde perché la moglie era bionda, e beveva per quella che si trovava una busta, scaricava da multilitro, ma aveva sempre questa perna dietro l'orecchio. Ma è una forza quel ragazzo, c'è un po' di forza. Hanno caricato un motore di un coso, di un gruppo elettrogeno, la garretta si hanno fatto, c'è una stradina, no? Che è in alto, che scende, e se la farà da raggiura, minimo bisogna fare 20-30 kg di motori. Si è una puzza già, Roberto già, a voglia che è una puzza. Beh, adesso la signora ha preparato e vi farà mangiare, dai, bianco per me, dai, ce la risentiamo dopo. E bianco, dai, ciao, buona cena, buona carica, ci sentiamo, avanti qua. Ciao, a dopo se coincide, dai, se non c'è niente la TV, ma sto qua ogni tanto a cercarlo, facciamo altre 2 chiacchiere, vai già. Oggi ci sono le Iene, io mi guardo quello, purtroppo al televisore poca roba io abito, guardo qualche programma così interessante e basta, film non li so più bene da chi mi trovo. Guardati la D'Urso Life. No, mi piace. Ah, dimmi, avviati, certo, perché me ne sto qua io, mi guardo qualche anch'io, mi guardo ieri mi ho guardato tutti i cavalli, l'altra volta mi ho guardato quello Tivernau, dice quella musica, quei cantanti esordienti, bravi, un bel programma anche quello. Allora adesso mi abito la D'Urso, Marco. Se mi guardo la D'Urso mi si ammoscia l'uccello. Oh, ok, hai visto quei due che sembravano gemelli, che si è messo in piedi col coltello? Non vi credo questo. E l'ho visto, sì, quello è un bel pericoloso. Se ti scappa il coltello, nella posizione in cui sei, ti entra in pappa. Ma io non ci credo, boh, c'è qualcosa sotto. Dal vivo sono, non lo so, sia una cosa studiata, però è molto, molto visto che nessuno voleva guardare. È molto pericoloso, se sbagli lì ti entra il coltello in pancia. Io comunque arriverò a casa verso le 8:30, se ci sette, 2 chiacchiere ce le facciamo, no? Adesso me ne vado a cenare, sennò poi perdo il tram. Qua siamo. Ma ho capito perché non te la scendi giù la motoretta, No, claro, non me la scendo giù, c'è la c'è un 4. Ma come vuoi lo vuoi qua, lascia morto? No, c'è il garage giù, ma è un casino, lascia perdere lui. Peccato, la sera male te la scendi. interessa, a me parlo San Camillo, mi porta a casa. San Camillo ti porta? Il treno di San Camillo lo porta a casa. Mi molla lì in via Sulci, si dà, a due passi da casa. Perciò prima lo fa a fare, non prendo né freddo né niente. Non ho preso le tette portate, lo dà di San Camillo a casa. Ah, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, ciao. Vai già. E comunque, in classe è sempre assembramento, coso, non avevo abbigliato. Casino, è un casino. E che assembramento già? Sono solo, trovano una persona sul colottita in tre. E che cazzo di assembramento? Ma, a dopo, ciao. Ciao, ciao. E vabbè, magari di notte no, di giorno è più frequentato. E vabbè. Comunque, ma Claudio, stavo chattando con Manuela quando mi avete chiamato. Il padre della bambina che lui va a fare lezione, che è autistica, no? Si è avvitato il coronavirus, adesso deve stare in quarantena. Manuela? No, Manuela non lo sa ancora, ma il padre di quella bambina che tiene, lei va a casa sua, quindi di conseguenza si è messa in quarantena da sola, poi adesso domani chiama il dottore. Ha fatto bene, ha fatto benissimo. Devi controllarci subito, immediatamente, e io ne ho due nel mio palazzo, figurati. Infatti non metto già l'ascensore io. Assolutamente, Marco a scendere, Filippo scende tranquillamente, a salire si mette sicuro un mozzighiero ai gradini, non frega niente, lo prendo in braccio, per quello ero già preoccupato, invece è venuto Guabbo e siamo usciti e ci hanno portato via, non mi interessa, non sto usando più ascensori, ce ne ho due io, due nel mio palazzo, non stanno uscendo però a me non me la fotti nulla. Anche io ne avevo due nel mio palazzo e sono guariti. Però l'ascensore lo uso lo stesso, ma i pulsanti li tocco con le chiavi, non li tocco con le mani. Io nulla, il mio è un bel grande, è doppio il tuo ascensore. È un casino, non sai che quindi sia appoggiato, unito, no. Io sono due persone grandi, capito? Non mi frega niente. Assolutamente. Ne abbiamo già detto l'amministratore, di stare attenti, quando scendono mascherina, guanti. Perché l'ho visto stamattina, buttando la mondetta, era tutto incappucciato, mascherina, guanti, cerveza, berretto, mi ha salutato, allontanati, stai lontano da me. Ma purtroppo anche questa gente qua deve fare le cose di casa, c'è poco da fare, cosa fai? È normale che butti la mondezza, io ci me ne ho ricordato, ieri ho portato il cane e mi sono dimenticato di buttarci la mondezza a casa. Oh signore, ho detto la mondezza, mi sono dimenticato, c'era anche l'umido, su Gabbo, con la fretta di portare il cane, non ho preso la mondezza e l'ho lasciata tutto il giorno a casa. Ma quello non è niente, io sono andato a prendere aria, mi sono caricato la mondezza del bar in macchina, l'umido, la plastica, le lattine, insomma tutto quello che c'era. Stava piovendo già, io li scarico io sotto a casa, e invece la giacca di macchina, sono entrato nel cancello e ho lasciato in macchina, la mattina sono preso la macchina, andavo a prendere il caffè e sigarette, e sentivo questo, non era neanche puzza, era un profumo di buccia di arancia, di limone, di cosa uscito, cazzo, ma che orario abbiamo messo qualche alberino, ma non lo vedo, qualcosa di profumato in macchina, e nulla. Poi quando sono sceso dalla macchina, hai visto quei cordoncini, quelli di plastica, che sembrano dei lacci, no? Adesso che è rimasto fuori dalla, come chiuso lo sportellone, di dietro. Quindi questa cosa ha bisogno, ha detto, no, non è possibile. Apro e c'era la mondezza dentro. Sì, quello è niente, io me ne ho già ricordato la fissa bussi un dollaro. Sì, ma a me è fatto, no, papà, noi non la buttiamo lì, non è fuori puzza. Sentire altri dei profumi, c'erano pezzi di tramezzini, roba, insomma roba di bar, dai, capito, nell'umido. Però c'era un bel buccio, che lo fanno molte spremute fa. E quindi c'era questo profumino di buccia di arancio, di cosa che c'è, di tubur, vabbè, sarà. E era mio in macchina, quindi può capitare già, può capitare. Non è un problema. Marco, quindi ti guardi Barbara D'Urso tu stanotte? sveglia nuda. No, no, no, cercherò qualche telefilm, qualche film vecchio mio, DVD, roba del genere, perché in TV non c'è niente di interessante. Vabbè, c'è quel film solito, Guardia del Corpo, con la defunta Whitney Houston e quell'altro tipo, come si chiama? Non mi viene il nome. Quello è il meno peggio come film, è il più interessante, però è già visto, roba vista, vista, rivista 10-20 volte, basta. Vediamo cosa riesco a pescare, dai. Se no c'è cosa, c'è canale 26, Marco. Ma mi dicono che è passato in HD e il mio televisore è talmente vecchio che il decoder non è neanche HD, non lo vedo più il cielo. No, il mio sì, ma basta risintonizzarlo. Io l'ho risintonizzato in uno, nell'altro in automatico, invece in questo l'ho sintonizzato io. L'ho sintonizzato e si vede. Sì, farò andare sintonizzato in questo, ho 30 anni, Marco. Questo c'è il decoder incorporato, ma ormai non funziona più, c'ho lo schermo anch'io, un 32 pollici della Milva, schermo piatto, però è appeso al muro. Io lo guardo molto cielo, capito? Cielo, Bimax, Focus, queste cose così. Ho cominciato l'altro giorno e aveva passato la scritta e che la cosa ha cambiato, ho detto vaffanculo. Ho preso lo sintonizzato e l'ho passato di nuovo. Sì, però se ha solo cambiato frequenza lo becco, se invece come ho sentito non so dove è passato in HD, il mio televisore, sempre LCD Grundig, non ha nemmeno il decoder HD, quindi non lo vedrei comunque se è passato in HD, devo verificare. No, ha cambiato solo frequenza. Sì, ha cambiato frequenza, sintonizzazione, no, HD. Già c'era l'HD, ma io non lo bombo mai HD, guardo sempre canale 5, sì, lo Sport, l'8, c'ero, Bimax, Focus, queste cose così, il 34, quando sono dei film, se no mi occupa a sé. Va bene, va bene. Avete mai sentito questo? Scusate, stavo cercando antenne per Gianni. Ho trovato questa antenna loop. Allora, la marca Ciro Mazzoni Medio Loop. Oppure Ciro Mazzoni Baby Loop. Che cos'è? Un elaboratore di antenne? Un produttore? Cos'è? Sicuramente sarà come Luca Matter, capito? Produttore di antenne. Poi, caspita il prezzo, 1500 sterline. E che antenna è loop? All'anima, Ciro Mazzoni, mai sentito? Mai sentito? Però questo è il mercato inglese, è un negozio inglese. Non lo so, mai sentito, anche io non l'ho mai sentito. Però se vende così vuol dire che le antenne sono buone. Cosa vuoi dire? Non lo so. Anche già. Ma il rumore che fa la guardariera con la voce blu abbassata, non è andato per 10, cioè c'è un bel vento. Ma ieri era la tapparetta, il vento era un proprio vero? No, è la tapparetta, no, mi l'ha fatto anche adesso. Come? Aspettatemi, dice amici, aspetta che vado a aprire. Eia, già riprendi. No, anche io ieri ho sentito un rumore strano. Scavo ti ha detto che il vento, ma dipende da dove arriva il vento, però. Secondo me era un trudio quello lì, aveva anche detto. E ho sentito, magari credeva che uscisse silenzioso, invece si è sentito, dice, il vento. È come la scusa della poltrona in pelle, no? O in sky, no? Come ti siedi? La poltrona è, sì sì. È come quello, mia madre mi ha raccontato che quando vivevano in campagna, un giorno si è guastato il coso del pozzo a sonda e la madre li ha mandati lì al fratello, da quello vicino, a prendere un po' d'acqua, dicendogli che si era appunto guastato questa pompa sommersa che non tirava l'acqua, eccetera, eccetera. Vabbè, sono andati da questi signori, stavano mangiando e c'era il cane sotto al tavolo. Praticamente gli ha detto, mamma così, questo che ha detto, sì, vieni che te la do l'acqua, non c'è problema, vieni, te ne do due bidoni. Praticamente a un certo punto, mentre gli stava dando l'acqua, brrrr, gli scappa lo scorriggio. Prende e ha dato un calcio al cane, brutto, ma l'ha ducato di una seia. E mamma si è avvisata che era Edu, attaccano a ridere, dice non ce la facevano più. Poveraccio il cane, è diventato il capo espiatorio, dai. Oh, yeah. Oh già, io sto cercando questa, quella che interessa a te, la Sigma PLC Minox S, giusto, la versione corta, perché se no c'è la L che è più lunga, però non si trova, c'era forse su questo sito inglese, però no, non dice se è disponibile, non dice quanto sono le specie che saranno folli per ordinarlo dall'Inghilterra, capito, questa Sigma. E ve la devo togliere dalla mente, dai. L'avevo fatta vedere Antonio Grode, quella lì andava un bel bene. Ce l'aveva in macchina, poi l'avevo staccata. Andava molto bene come antenna. Sì, sì, mi ricordo che si era lamentato. E io invece, sbagliando, mi era entrato in testa che era la bibanda, come si chiama? Diamond NR770. Io c'avevo in testa quella, invece no. Era la Minox per la 27 della Sigma. Sai cos'è già adesso? È che la Sigma ha chiuso, quella italiana, e tutti i prodotti sono andati a ruba, soprattutto perché erano gli ultimi pezzi, e non lo so se la troverai, a meno che non trovino in qualche cantina, qualche magazzino, qualche fondo di magazzino, nuovo naturalmente, e allora la puoi prendere, però se la trovi prendila subito, all'istante, non esitare. Quella è leggera, capito Marco? Se io ci metto quella grande, mi faccio la cappotta. L'altro giorno ho toccato un albero, ma meno male che c'era la calavita, se no mi avrebbe stracciato la cappotta. Ma lo stilo si è semplicemente flesso o si è piegato, si è rovinato? No, si è abbassato proprio, si è mollato. Si è mollato e si è abbassato, come ha toccato. E niente, come ha dato il colpo, sicuramente ha mollato la... Tu pensa che una volta, sai cosa mi è successo? Siccome quando ce l'avevo fissa, la mettevo, la toglievo e la mettevo, no, ce l'avevo fissa però nella cappotta, e la friggevo con le pinze per non rubarmi. Una volta, quando andavo al lavoro, la lasciavo, la stavo così a toglierla ogni volta. La friggevo con le pinze, una volta ho fatto da Sassari a Porto Torres con le pinze sulla cappotta. Sì, capita. Sì, ma infatti per non farsela fregare bisogna togliere la manettina, no, solita, la manetta, chiamiamo, vabbè. Dura, non è da stringere col dado, con le pinze, perché sennò chiunque gira la manetta se la porta via. Una volta mi aveva fatto lo scherzo un ex CB, no? Io ce l'avevo a Grondina, ed era la PLC 800, no? Avevo svitato lo stilo e l'avevo messo in macchina e ho detto non sia che me lo rubino lo stilo, scemo, e ho lasciato la bobina, beh, antenna nuova, torno dopo aver fatto un giro, sparita la bobina, io con le mani in testa, cioè, mi hanno rubato la bobina, ed era uno scherzo che mi aveva fatto Super Pippo, dai. E beh, te l'ha rubata col filo attaccato. No, non rubata, era uno scherzo. No, aveva svitato con quella manetta che ti ho detto io, no, con quella leva, aveva svitato lo snodo e si era portato via la bobina, capito? Lo stilo l'avevo messo nel cofano. E poi me l'ha fatta vedere, mila tantella, sulla pagazza tua. Credo che me l'avessero rubata proprio così, rubata, invece era uno scherzo. E poi togliere lo stilo non lo fa perché ti causa stazionare, però secondo come lo rimetti poi, conviene togliere tutta la parte, se no ogni volta devi stare a regolarti in stazionario, casino. No, lo stilo non fa. Ah, io ho intenzione di metterla davanti dove c'è l'attacco della luce, lì, perché poi ci arrivi facilmente a piazzare il filo e tutto quanto, capito? Lì dove c'è la plafoniera, basta togliere la plafoniera e fare il buco lì e la metti lì. senza stare a fare tante cose, tanti giri, togliono il cielo, per smontare il cielo per arrivare al centro capota, che dopo è la stessa cosa. Perché io con l'Antalino una volta abbiamo fatto la prova, io ce l'avevo al centro capota e lui ce l'aveva davanti, lui con la PLC 800, io con la Turbo 2001 avevamo lo stesso segnale. La pompa, ya, pompa, sono ritornato, sono. Ehi, Antomato, li devi lineare, che non c'è bisogno, che stai uscendo un po' saturo. Già lo so, già me ne sono... E adesso mi passo con la tua radio, dai. Era buon pendi. Ok, va, aspetta che passo con la tua radio, che è meglio, va. Ehi, non c'è bisogno, lascialo stare. Lascia stare, già, ti capiamo lo stesso, solo che sei compresso, forte. Vabbè, già Luglio, già a fondo scala, in Kiwi. Kappa kappa. Vabbè, ma io anche se attacco non te ne accorgi tu. Pure io se metto un altro. Ah, un gruppo, che c'ho avuto a me senza attaccarlo. Prova là, sai io. Marco, ho capito? Quell'antenna lì mi piaceva perché era performante. Anche se non corta, arrivava da tutte le parti. Era molto buona come antenna. Sì, forse ho detto una fesseria già, forse lo stilo non l'ho tolto, perché vedo che c'è le attacche a brugola, forse si era portato via tutto, bobina e stilo, capito? Tutt'uno. E poi me l'ha fatta arrivare a bere il giorno dopo. Dice, beh, pasimato ti sei. Nuova era, te ne male, meno male che era uno scherzo. E invece a me già me l'hanno rubata davvero, mi hanno tagliato il filo, c'avevo la magnetica, mi hanno tagliato il filo e me l'hanno rubata. Mi hanno rubato sia quella che un Intech FM500S, mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato il baracchino. E poi a seconda di com'è, a seconda della macchina ti costa più il vetro da rifare che non il baracchino. Ma poi sono stati stolti, c'era lo spinotto, cazzo, bastava staccare due bananine e se lo portavano via, l'hanno tagliato con i furbici il filo, cazzo, proprio intelligentissimi. E allora era gente non pratica, non era gente pratica che sa delle banane, no, sono stati i soliti tossici e come vedevano roba che si poteva rivendere, estratta tutto. Cisso, cisso. Sì, ho fatica a trovarla già. Probabilmente appena sapevi che chiudeva la Sigma Italia, dovevi subito ordinartela quella e tenerla da parte per usi futuri, come dico io. Oh, eccomi qua, guardate a vedere. Com'è con questo? Questo è 747. Prova! 2-3 prova, com'è? Più chiara! Migliore, è vero, lo so, quello là era il ZG B150. Ma il ZG, a me non mi piace, sinceramente l'ho sempre saturato, bisogna regolarli con l'apparecchio, eccetera. Invece 747 è difficile che sa. Guarda, comunque che passa lui, Ma RM Italia! Cos'ha detto Pompo? Quelli, cioè, lì, allora praticamente 747 è fatto dalla Midland, però, cioè, non è fatto, però chi lo fa proprio RM Italia, Italy, RM Italy, come quella marca che c'ha Claudio, la fanno loro, la fanno il 747, una delle migliori che ci sia in circolazione. Cosa stavi dicendo, Ale? Il 747 lo fa la CTE. No, diglielo tu, Marco. Stavo dicendo che tu passi a cosa, a Gianni adesso, con 747, lo passi. Grazie, col 747, Baro. Diglielo tu, Marco. Cioè, è fatto col marchio Midland, però lo fa la RM Italia, vero? Allora, mi parla, quindi, in questione, passi a posto, a Giano, strada, per questo fatto stesso, meglio dell'altro. Vero, ma quanto sto arrivando lì? Scusa che si scende male, Ali. State parlando in tre. Io non ho capito niente, boh. Vado? Vai, vai. No, già, forse ho capito cosa intendeva Bombolo. Le ultime versioni, credo, del 747, quello chiamato HF 747 Booster, cioè